Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli, benvenuti all'appuntamento con le notizie europee. Oggi in realtà partiamo da una capitale europea, Vienna. La Corte Costituzionale austriaca ha infatti annullato i risultati del ballottaggio delle elezioni presidenziali dello scorso mese di maggio, quelle che hanno visto l'ecologista Alexander Van der Bellen prevalere sul candidato di estrema destra Norbert Hofer. La decisione è stata presa per irregolarità nello spoglio. Il provvedimento della Corte, senza precedenti, accoglie un ricorso depositato dal partito l'FPO di Hofer e apre la strada alla ripetizione del ballottaggio in autunno. Insomma, Van der Bellen doveva insediarsi tra pochi giorni, l'8 luglio. Tutto quanto invece è congelato, le funzioni del presidente saranno svolte ad interim dalla presidenza della Camera Bassa del Parlamento. Insomma, una decisione che ovviamente è nazionale, ma che alla luce anche della campagna elettorale, della forte posizione di euroscetticismo dell'FPO di Hofer, segna sicuramente l'attualità, già evidentemente segnata dal tema della Brexit. Andiamo avanti. La Commissione europea ha proposto di mobilitare altri 1,4 miliardi di euro del pacchetto di 3 miliardi per il 2016-2017 destinato ad aiutare i rifugiati in Turchia, il pacchetto concordato nell'ambito dell'accordo di marzo con Ankara. La proposta è stata presentata oggi dal Comitato di Controllo del Fondo per i Rifugiati. Il nuovo pacchetto dovrà essere impiegato per misure nel campo dell'istruzione, della salute, delle infrastrutture e del sostegno socio-economico. Le istituzioni di Bruxelles, la Commissione in particolare, dovrebbero condividere molte responsabilità per la Brexit. Scrive oggi sul Financial Times il ministro degli affari esteri della Repubblica Ceca, Lubomír Zoralek. Secondo il capo della diplomazia di Praga, dopo la Brexit, l'urgenza di muoversi rapidamente è comprensibile ma molto pericolosa. Un'incertezza temporanea, dice, è preferibile ad una scelta cattiva e irreversibile. Sempre, diciamo, più a est, oltre la Repubblica Ceca, ai confini dell'Unione Europea, una notizia che arriva invece dall'Ucraina, dove il premier, appunto, ucraino Volodymyr Groysman si è detto convinto che il suo paese sarà membro dell'Unione Europea entro 10 anni, malgrado le evidenti difficoltà del processo di allargamento complicate nettamente dalla Brexit. Sono convinto, ha dichiarato il capo dell'esecutivo ucraino in media del gruppo tedesco Funke Mediengruppe. Noi seguiamo un cammino europeo, questo per noi significa libertà, diritti umani, economia forte. Questo dunque il proposito. Lo ricordiamo, l'Ucraina ha firmato un accordo di associazione con l'Unione Europea che è di fatto alla base delle tensioni, o meglio del precipitare delle tensioni con Mosca, e che pone le basi per una crescente integrazione con l'Unione Europea, anche se appunto le prospettive di un'adesione sembrano quanto mai lontane. E adesso invece il nostro Dario Ricci ci porta, come dire, in un'Europa che ragiona di calcio e di sicurezza. Sentiamo. Una nuova convenzione internazionale per aumentare la sicurezza in occasione dei match di calcio e degli altri eventi sportivi, rafforzare la cooperazione tra le polizie transnazionali e migliorare il dialogo tra forze dell'ordine, autorità locali, club e tifo organizzato. A promuoverla è il Consiglio d'Europa e la ratifica arriverà domenica 3 luglio allo stadio parigino di Saint-Denis, poco prima della sfida tra Francia e Islanda che vale un posto nelle semifinali di Euro 2016. La nuova convenzione promuoverà strumenti e iniziative anche per la verifica e l'implementazione degli standard di sicurezza e accessibilità degli stadi. Per le polizie nazionali dovrebbe inoltre divenire più facile scambiarsi dati e informazioni per arginare gli hooligans, contro i quali nel testo sono previste sanzioni sia nel paese in cui i reati vengono commessi che in quello di residenza, oltre a più severe limitazioni per i viaggi all'estero e l'ingresso negli stessi stadi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bordeaux. Bene, adesso parliamo davvero invece del calcio giocato e delle prossime sfide. La linea va a tutti i convocati, noi ci risentiamo lunedì. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.